239esima trasmissione dedicata agli emigrati. Omaggio a Enrico Fruc. C'è naviga pal cilla fantasie, un mar di frutto ieri, innamorati, piardude poesie. Ecco, cari emigrati, ce la confessa egli stesso ingenuamente la sua matta, precoce passione infantile, il nostro Enrico Fruc, alla cui memoria in questi giorni è stata scoperta una lapide sulla povera casa natale nell'alpestre borgata di Ludaria di Rigolato, in Carnia. Ed è cosa singolare e piacevole constatare in tempi siffatti di facile dimenticanza che a volere questa nuova testimonianza di riconoscente amore al poeta Enrico Fruc siano gli ex allievi orfani di guerra dell'istituto di Rubignacco, che dal 1930 furono ospiti della colonia alpina del predetto istituto proprio a Ludaria. Ad essi, allora adolescenti, attraverso l'ascolto e la lettura dei suoi limpidi versi, il poeta Fruc scoperse quasi l'anima genuina della Carnia. Anche la lapide in ceramica è opera di un ex allievo, orfano di guerra, il professor Enore Pezzetta di Buia. Enrico Fruc, che nel mondo della letteratura friulana del primo Novecento si afferma quale cantore della natura e della montagna, già è stato fugacemente ricordato in questa rubrica, ma oggi vogliamo intrattenerci un po' più a lungo con lui, riaprendo la bella raccolta di versi curata dal fraterno, nostro comune amico, Chino Ermacora. Ascoltiamo Mi plasin. Mi plasin che stradelis che van via piardisi lontan l'aiuta i pras, par sotti poi cuntun royuz che urfas di compagnie. C'è bon odor callasse il chiar di fen passant, il terenar va cula pline e al rizzo la taviele verduline un biel seren. Sutil, spizzat, cu che il tor di un pais che fin l'aiuti invidia a chiamina, e tu senti spai pras di qua e di là il chian dei gris. Con la stessa semplicità ed estrema spontaneità, notate ora come ci dà la sensazione di vivere una sere d'autunno. E Collins crosopand li sfeis de vit e si sparnizin del royut su lor, un ucelut abbandonate avilit al cir temede un fregul di calor. La tiare sete dal zardin flapit si cuviarsi fuiam d'ogni color. L'ultim rai di soreli alle sparit e rifletting l'ismonz l'ultim splendor. Acuto osservatore che contempla tutte le inezie del suo piccolo mondo, spirito sensibilissimo dall'anima semplice e un po' triste, invaghita dei fiori della terra e di quelli della vita, non poteva dimenticare nei suoi canti i bambini che vivono specialmente in Fruz di Catine. Catine anda quattro tra frutti e fruz, musuti starondis che parin miluz, duit facin tumut, campions di salut. La prime, ie file, tan brave di lei, po venin i zimui che stan in tunzei, po l'ultime une che chiante tescune. I zimui son sempre che trotin di scolz, che supin chianusis par diol di quel dolz, che tain li sbacchetis par falis sunetis. Stan fers, quand che gustin in doitu in chiadin, e che si spartisin quel toc di cicin a miege scultui, cal vivi anche lui. E quanto sapore di agreste pace ancora in queste immagini di l'accord di Catine. Platade dai iatui, su lor de maline, le il regno des bestis, l'accord di Catine. Passan par di là, bisogna gli entra. D'indiat sot la lobie e fasin la ruede, polez e ialinis e sgarfin temede, e il chian calies fur nu salte da ur. La fatica e le sofferenze della gente di montagna trovano un'evidenza particolare in questo sonetto Supa Laupe. E mai né un stirp di zamar né un edane in che desert calpar un chalderon sod da canicule, dome une fontane tal cret e une schiernete di grignon. L'aer, la bovadizia e la brentane sdrumin la monda la picca al fondon. E se pai crezzi il temporal sia cane iu pal chianal, al nasi il ribalton. Dut quant, vivi e morì, coste fadisca su. va l'aupe impresse, saludant con quel salut compagn i muarts e i vis. La nota patriottica e civile non lo impressiona affatto e sa cavare anche per essa dalla nostra parlata friulana toni forti ed appropriati. Basterebbe citare il Chiant di Aquileia, sintesi perfetta della gloriosa e turbinosa storia della grande e sempre vivente Aquileia, ma preferiamo qui richiamare i versi che al Fruc vennero ispirati dal piccolo cimitero di guerra che esisteva nei pressi di Clauzetto e che custodiva le salme degli alpini, dei fanti e dei bersaglieri caduti nei primi giorni del novembre 1917 per contrastare l'avanzata all'avversario dopo la rotta di Caporetto. Umanità e natura si fondono mirabilmente in questa composizione. Cimiteri di guerre. Partrois e bosques vignivio a clausè che la giornata iere sul finì. Li sfuei scolavin, scomenzava il fre e non passava un'anime per lì. Comichiatai denant al mies dei pras il picciol cimitero dei soldas che i quattro murs a bas di quel dorton la che duarmin i muars de ritirade du là che insieme coi nestris e son anche i nemis che urtaiavin la strada. Fra i garofi di spine e fra i baraz parzore duci la cros slardiava i braz. Talviargisi il ristiello al deve un ciul cal pareve il lamento d'un puer ferit e del rest si sentive nomen un riul cori cul so sangloz ali da pit. Ma ecco alcuni squarci di vita di alpeggio e di tradizione in Madone di Settembar. Son coladis lis fueis lunchiu paltroi ie colà della nev sul serenat, si distiamin gli smonts per d'inchiaroi e mur li stat, e mur li stat, e in mont l'ultime sere e andit rosari a tor dal fogolar. Passando man si arade la casere al valfedar. Scampanotant intant venin gli svacis e il custodi da pruf col suo baston, con che scarponis come dos bisacis a pendolon. Ding dong, ding dang, tu as lassade che androne e che il sottuarti neri di chialin e tu se slat pe viote de corone sotto il mulin. E Filumene che vengiu pe cleve li zere svelte sotto il gei calcriche che di buinore quand che l'albe ieve lassù che piche ie simpri in pis ti ha dit passant cungio vaiul soreli da urdi che c'è di nul la insom di guardie sul chiarsò reste l'uvie. Vaiul soreli, e il tinimend la vie sot la pinete si lusinta pene. Disin, parzorella, l'ave marie, cesclans e mene. La mont mariane a poc s'indore, spietant che dute di lung fur si spandi la gnot. O chiarnie, e gli benchèste l'ore di dì ti mandi. O chiarnie, mandi. Il pastor alla fate la sostaglion cui ultims ciclamins e in mont cui reste quand che te fumate gotin i pings. Pochi tratti magistrali di pennello, poche parole scultoree ed un quadro si presenterà preciso e suggestivo davanti ai vostri occhi. Il Sunador. Sulla zazzare un squac larg di brigant che tapone la muse di plevan e sugli sgiambi scurtis un gaban di militar, simpri suoi utrotan, simpri palmont, par via dal carantan che nuscovente partirà in denan. Ma qualche volte al sune anche di ban, par so con fuar, par cui età la fan. Gli sfantati sluclamin, Giosuè, sunai nu sune! E lui, soi ca, li alla finares di ridi e di balà. Si tire giù l'armoniche de schene, la viarz, la strenz, la stuarz e la remene, chialant come ispirat denan di sé. Per il canto diede una vasta fiorita di versi che dovevano certamente facilitare il compito del musicista nel rivestirli di note, tanto si presentavano densi di musicalità. Tra i più noti citiamo i versi che hanno dato modo a Franco Escher di comporre quell'accorato canto Lontan, lontan. Anin, vari infortuni. La primavera è nul, non spiete al clar di lune il vecchio barciarul. Il barciarul all'arreme. Addio bielcil furlan, nos barchiarin insieme laiù, lontan, lontan. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ottavio Valerio.